guardie o ladri? Di Roberto Galullo. Buonasera e benvenuti all'ascolto della mia trasmissione in onda ogni sabato alle 19.30 sulle frequenze di Radio 24. Ormai siamo per celebrare il secondo anno e abbiamo uno zoccolo affezionatissimo di radioascoltatori. Di cosa parliamo? Beh, parliamo di legalità in questa trasmissione e vi ricordo che possiamo parlarne anche nella mia altra trasmissione su Radio 24, Un abuso al giorno, in onda alle 6.45, in replica alle 20.45. O se volete attraverso il blog robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Allora, sabato scorso abbiamo parlato di usura. Ne abbiamo parlato perché si è svolto un convegno in provincia di Verbano, Cusio, Ossola, promosso da SOS Utenti, di cui abbiamo avuto alcuni rappresentanti con noi in studio, e questo convegno parlava, io leggo testualmente il comunicato stampa, di usura bancaria oltre che di obbligazioni spazzatura e derivati killer, e metteva in cattiva luce il rapporto tra banche e utenti. Abbiamo sentito delle storie di imprenditori, piccoli artigiani, piccoli commercianti, che continueremo a sentire anche oggi. Allora, sia ben chiaro che nelle mie trasmissioni io non ascolto mai una sola campana. Tutti debbono avere il diritto di rispondere alle critiche ed è per questo che io ho chiamato, e di questo sono ovviamente contento, per una informazione corretta, l'avvocato Giovanni Staiano, che è responsabile settore affari legali dell'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana. Perché appunto nella scorsa puntata sono state mosse delle accuse molto pesanti al sistema creditizio italiano. Innanzitutto buonasera Staiano. Buonasera a tutti. Allora, io direi, si può o non si deve parlare di usura bancaria? Perché tante accuse nei confronti delle banche da parte degli imprenditori, soprattutto che non vedono più vicine le banche come una volta al proprio ruolo imprenditoriale? Ma innanzitutto dobbiamo dire che le banche si attengono alla legge in materia, è una legge del 1996, la 108, che stabilisce appunto qual è il tasso massimo applicabile a ciascun rapporto. Questo tasso viene, secondo quanto previsto dalla legge, stabilito con un decreto del Ministero del Tesoro sulla base delle rilevazioni sul mercato che vengono svolte dalla Banca d'Italia. Ecco, e questo qui lo dico io, questa sua considerazione. La scorsa puntata noi abbiamo sentito denunciare da questa associazione dei tassi soglia usurari in moltissime regioni, elaborazioni che invece l'ABI contesta perché le ritiene di diversa e più complessa, come dire, architettura, e quindi non si può dire tu cur, ad esempio, che in Piemonte, in Liguria, in Friuli ci siano dei tassi usurari e in altre regioni no. Questa è un'accusa che è stata lanciata e a quale appunto l'ABI risponde negativamente. Ma le chiedo questo, Staiano: noi abbiamo sentito storie di imprenditori che hanno così sintetizzato il loro rapporto con le banche. Fino a che andava tutto bene? Bene. Nel momento in cui ho avuto qualche difficoltà, un momento di ritardo nel pagamento o comunque un momento di ritardo negli incassi, ecco, le banche subito mi hanno chiesto di rientrare dal fido, mi hanno lasciato sole. Ecco, secondo quella che è la sua esperienza, accade, non dovrebbe accadere, o che cosa si può aggiungere a questa riflessione amara? Diciamo, salvo poi singolo caso concreto che ovviamente non conosciamo, noi abbiamo dei dati, specie in questo momento di crisi, molto confortanti, e quindi che rilevano addirittura un aumento, un incremento come dire, sostanzioso degli impieghi nell'ultimo mese di ottobre, secondo le rilevazioni che ha diffuso recentemente la Banca d'Italia. Quindi in buona sostanza non è addirittura all'11%. Quindi non è vero che in questo momento, soprattutto di crisi, le banche chiudono i cordoni, e allora come mai questo invito giunge anche, voglio dire, da vertici sicuramente significativi, quali possono essere quelli governativi e la stessa Confindustria, che dice: mi raccomando banche, non chiudete i rubinetti. Questo non è vero allora? Noi riguardi anche di questi giorni proprio gli articoli sul giornale, le varie dichiarazioni, come ripeto i dati ufficiali dicono appunto che in Italia non c'è questo problema di cosiddetto credit crunch, cioè di taglio del credito, e proprio gli impieghi, come monitorati su base mensile dalla Banca d'Italia, sono appunto nel mese di ottobre cresciuti dell'11% e del 9% nel mese di settembre precedente. Anche nei confronti delle PMI questo? E quindi questo. Poi dobbiamo anche richiamare tutta una serie di iniziative che stiamo portando avanti in ABI insieme alle altre associazioni. In particolare vi è un tavolo di lavoro che prevede ai vertici di ABI e Confindustria proprio in questo periodo, ci sono state una serie di incontri, il tavolo di lavoro ha come finalità, tra le varie, ma rilevantissima, quella del potenziamento dei cosiddetti confidi, per consentire un maggior credito alle piccole e medie imprese. Ecco, e questo è infatti uno dei temi all'ordine del giorno ormai sui tavoli istituzionali della politica e non solo del nostro Stato. Io ringrazio l'avvocato Staiano per il suo intervento e ora è il momento di ascoltare, come abbiamo fatto anche nel passato, storie di persone che sono state vittime di usura, e abbiamo chiamato a parlarne con noi una imprenditrice, o meglio lei si reputa un ex imprenditrice, proprio a seguito della brutta storia che ha avuto. È Franca De Candia ed è una imprenditrice umbra, presidente dell'Associazione Nazionale Vittime dell'Usura. Buonasera De Candia. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. E abbiamo chiamato anche una vittima anch'essa di usura, laziale, romano esattamente, Fausto Bernardini, che è presidente dell'associazione sportiva Sette Camini Calcio a 5. Buonasera Bernardini. Buonasera a lei e ai suoi ospiti e a tutti i radioascoltatori. Allora, io direi di partire dalla storia di De Candia. Ecco, mi ha colpito questo fatto che lei si definisca un'ex imprenditrice. Come mai tanto scoramento, De Candia? Non è scoramento. Diciamo che imprenditrice vera lo ero sicuramente prima dei fatti, in quanto potevo vantare sicuramente di un maggior credito in quanto imprenditrice. Sono ancora un'imprenditrice, ma diciamo molto meno affidabile di quanto lo fossi prima dell'usura e vado avanti con molta più fatica. Questo perché la sua immagine è stata devastata da questa storia? Sicuramente. Perché le banche chiudono i fidi o per quale altro motivo? Ma la banca è stato il motivo per cui sono andata sotto usura. Dopo non è stato un problema di banche, il problema è in te stesso, perché vieni distrutto tu, più che la distruzione viene da te stesso. Ecco, De Candia, potrebbe raccontare la sua storia ai nostri radioascoltatori? È una storia che in pochi minuti non è facile da raccontare, ma diciamo che comincia con un cambio di un direttore di banca, ed ecco la banca. Un cambio di direttore di banca che in una giornata normale di un anno, con una crisi sufficiente come quella che purtroppo stiamo vivendo, che fu la prima guerra nel Golfo, quindi l'invasione del Kuwait. Quindi parliamo del 1991? 91, esatto. E praticamente mi dice che era arrivato lui e non potevo più avere l'affidamento che mi era stato concesso e che i soldi che avevo versato fino a quel momento andavano per coprire il fido e gli assegni che sarebbero arrivati in seguito non sarebbero stati pagati. E quindi lei a quel punto che decisione prende? Io non prendo decisioni perché penso soltanto che il protesto in Italia è la morte civile per l'imprenditore e quindi torno scoraggiata al negozio, dove incontro una persona, un'amica, una cliente del negozio che reputavo amica, non sapevo che mestiere facesse, non sapevo niente di lei, però era una cliente affezionata di uno dei negozi, e la quale mi dice che c'è una persona che potrebbe aiutarmi. Comincia tutto così, ma erano 10 milioni a spendere. Ecco, ingenuità o disperazione? Ma era tutte e due insieme, perché era ingenuità e disperazione, perché io per gli altri avevo sempre pensato, quando sentivo storie di usura, ma perché non vanno in banca? sono dei deficienti, questo pensavo io. Quindi non avrei mai pensato di volermi o dovermi rivolgere a degli usurai. Ecco, per dare qualche cifra, quanto lei aveva chiesto all'epoca e a che tassi avrebbe dovuto restituire, con quale frequenza i soldi? Allora, che lei... io non sapevo che dovevo pagare degli interessi, sapevo che sicuramente avrei pagato degli interessi, ma non quanto, in quanto la signora in questione, che fu la prima che mi contattò, volle un assegno di mia figlia da 12 milioni e me ne diede 10, però mi disse poi me li restituisce con calma, quindi io diciamo non ho pensato, io avevo lasciato un assegno, ho detto ma io entro un mese glieli restituisco, bene, allora non è un problema, le restituisco l'assegno, quindi non si era in realtà parlato di cifra che io avrei dovuto dare. Ecco, e questo se è capitato quando lei mi ha detto può spedirmi tranquillamente 2 milioni al mese, e lì davvero io ingenuamente, da cretina, ho spedito 2 milioni, perché ormai c'è passaggio, 2 milioni al mese, quando ne ho spediti 12 dopo 6 mesi, secondo me era pagato il debito, io ho detto nemmeno tanto, insomma, e tutta contenta ho chiamato, ho detto estinto il debito, posso venire a riprendermi l'assegno, lì è cambiata. E lì che cosa è successo? È successo che questa voce gentilissima fino a quel momento mi dava del lei, all'improvviso mi dà del tu e mi dice... Ma allora non hai capito un punto, tu mi devi ancora 12 milioni, hai pagato solo gli interessi. Io la fermo soltanto un attimo. Guardie o ladri? Bene, chi vi parla è Roberto Galullo, stiamo parlando anche oggi di racket ed usura, lo stiamo facendo con la storia di un'imprenditrice che continuiamo a questo punto ad ascoltare. A questo punto succede che mentre prima c'era anche una certa disponibilità, se gli spedivo il 5, gli spedivo il 7, nessuno mi diceva niente, l'incubo arriva perché comincio a capire che 12 milioni insieme non li avevo, quindi se pagavo il 7 invece del 5 diventavano 200-300 mila lire in più, se pagavo 15 giorni in più dovevo versare altri soldi in più, ecco, quindi dovevo andare da altre persone, poi ho conosciuto diciamo un mondo di usurai. E ovviamente questo qui è diventato una spirale dalla quale uscire. Una spirale dalla quale io non uscivo, mi alzavo la mattina col pensiero non più di seguire le mie aziende, i miei operai che erano 13 a quel momento, ma di procurarmi i soldi per pagare il primo per poi procurarmi quelli da dare al secondo. Ecco, una cosa le chiedo, soltanto prestiti di denaro o ci sono state anche coercizioni fisiche, violenze? State purtroppo, quando io mi sono decisa a denunciare è stato perché non ce l'ho più fatta, perché capivo che non ne sarei più uscita e diciamo io, non è, diciamo tutti un atto di coraggio, non è un atto di coraggio, è un atto di civiltà. Credo. Non ne sono uscita, ho denunciato d'accordo con la polizia, quindi incastrando questi signori, nel momento in cui hanno cominciato a paventarmi l'idea che sapevano dove era mia figlia o mie figlie, mi chiamavano tutte le ore del giorno e della notte, anche in piena notte, per cui lì ho cominciato a capire che il gioco si faceva, insomma, stavo entrando in un film che andava oltre la mia fantasia. In un vero e proprio incubo. De Candia, le chiedo questo: qual è la morale che lei trae da questa storia? Ah, la morale, la prima cosa che sicuramente dico, mi sento davvero di dirlo, che ci sono degli errori da parte nostra, che la paura del protesto, la paura del fallimento, la paura di tante cose ti rende succube di queste persone, e questo soprattutto in questi momenti dove magari ci vediamo rifiutare un prestito da una banca, ma qualsiasi cosa è meglio dell'usura, qualsiasi cosa, persino mettersi davanti ai semafori, se posso usare un eccesso, perché tanto una volta che ti rivolgi all'usura, l'usura ti toglie tutto, ti toglie non solo quello che hai, economicamente ti è rimasto, ma ti toglie la tua vita, ti toglie la famiglia, ti toglie la tua la dignità, la voglia di vivere, ti toglie la vita, toglie il sangue e toglie anche la dignità. E io le facevo questa domanda, De Candia, perché secondo me la morale, e lo chiedo a Bernardini, così introduciamo la sua storia, la morale potrebbe essere anche che forse ci sono persone che giocano a fare finte amiche o i finti amici per poi indirizzare gli imprenditori o le persone comuni verso una strada che poi è una strada senza uscita. Bernardini, a lei com'è andata? Condivido le tue affermazioni, perché anch'io mi sono caduto nel mondo dell'usura, perché ero andato da un mio amico commerciante a chiedere un prestito momentaneo per sopperire delle difficoltà che avevo nella conduzione della mia associazione sportiva. Quindi una persona, diciamo così, che lei non sospettava, un insospettabile? Assolutamente no, anzi, alcuni anni prima addirittura aveva sponsorizzato la mia squadra femminile di calcio a 5. Ah, ecco. E la sua storia invece come inizia, o meglio, come inizia ce lo ha raccontato, ma poi come prosegue? Lei perché chiede dei soldi? Intanto decide di rivolgersi addirittura ad un collega, sì, ad un commerciante, anziché andare da una banca, ad esempio. Allora, la mia storia è un po' particolare, perché non essendo un imprenditore ma un presidente di un'associazione sportiva, quindi senza fine di lucro, a livello bancario non hai nessun credito. Per cui per portare avanti le attività sportive vai tramite i proventi che entrano dalle sponsorizzazioni, dai contratti di partnership che hai con imprese locali piuttosto che commercianti locali. A fronte di questi impegni che uno poi prende per portare avanti l'attività, ha anche delle scadenze, che sono quelle per esempio dell'affitto dei campi. Noi come associazione sportiva pagavamo circa 30.000 euro l'anno di affitto dei campi per fare attività sportiva, campi oltretutto del Comune di Roma, e lì dovevi onorare le scadenze. Ecco, quindi ad un certo punto cosa è successo? Che lei non aveva più liquidità, non sapeva come affrontare più che cosa? Non so, la spesa per l'affitto dei campi, piuttosto che... Non avevamo più liquidità perché i contratti pubblicitari nel mondo dello sport poi delle volte si basano anche su delle promesse che non vengono mantenute da parte delle aziende partner che in qualche modo decidono di aiutarti. Quindi a fronte dei ritardi delle tranche da parte delle società di sponsorizzazione, mi sono ritrovato a coprire una serie di assegni che erano stati fatti per onorare il campo, il materiale e l'attività medica prevista nel mondo dello sport, per cui mi sono rivolto a questo commerciante. Ecco, ma Bernardini, scatta anche un senso di paura quando ci si trova improvvisamente di fronte a delle scadenze a cui non si sa come far fronte? Cioè, lei è scattata la paura, non so, del carcere, della gogna? È scattata in quel momento la paura di distruggere tutto quello che era stato costruito, tutto quello che era stato costruito, anni di lavoro. Di lavoro. Ecco, quando è che lei decide di denunciare? Perché lo fa? Allora, io ho deciso di denunciare dopo un anno e mezzo perché fisicamente non riuscivo più a pagare le rate, e perché una sera sono venuti a casa. E quindi a questo punto minacciavano gli affetti più cari, lei e la sua famiglia? Hanno minacciato la incolumità sia mia che delle mie figlie. Ma lei è scappato da Roma o continua a vivere a Roma? Cioè, lei come si reinserisce socialmente a questo punto nella sua città, nella capitale, ricordiamolo, capitale spesso anche di fatti criminosi come quello che stiamo raccontando? Allora, io mi sono reinserito socialmente nel mondo del lavoro, dove ho trovato grandissima solidarietà da parte dell'azienda, dove lavoro, e da parte dei miei colleghi. Socialmente invece, nella zona dove abito, lì sono grandi difficoltà perché purtroppo nei miei confronti Ne sono state dette molte e non è più possibile riallacciare rapporti sociali con nessuno. Quindi lei non è più presidente di questa associazione sportiva? No, è morta il giorno che ho fatto la denuncia. Un'altra cosa volevo chiederle. Le persone che lei ha denunciato, non mi interessa sapere chi sono, da dove vengono, perché tanto voglio dire, il marcio c'è ovunque, ma dove sono in questo momento fisicamente? Sono detenute? Sono oppure detenute, tranquillamente passeggiano per questo quartiere periferico di Roma verso il nord-est? Allora, nella denuncia, in questi giri, in questa vicenda, oltre ai commercianti che già sono stati, che mi hanno portato al mondo dell'usura, sono stati condannati in primo grado già uno a 3 anni e l'altro a 2 anni e 4 mesi. C'è un processo in corso con le persone con le quali io avevo contatti diretti, quindi avevo le transazioni, e il processo è in via di definizione perché credo manchi un'udienza, massimo due, però c'è ancora ci sono 2 persone denunciate a piede libero che ancora girano. Ha paura, cioè nel momento in cui queste persone usciranno dal carcere, lei crede che potrebbero tornare dalle sue parti? Non ho paura. Allora, io ho sempre detto che la vittima di usura viaggia con la morte a fianco per tutto il periodo, da quando entra finché non esce. Quindi una volta che ti sei liberato, ed è l'unico modo per uscirne, è soltanto quello di denunciare, non hai più paura, perché la morte l'hai vista in faccia. In faccia. Bernardini, io la ringrazio della sua storia, ovviamente ringrazio anche Franca De Candia, e ovviamente da parte mia, da parte di questa radio, il massimo della solidarietà e in bocca al lupo per il vostro cammino sociale e ovviamente nelle vostre attività lavorative. Grazie a lei. Bene, ringrazio i miei ospiti per i loro interventi e colgo l'occasione per dare un piccolo annuncio ai radioascoltatori. Questa è la penultima puntata di Guardie o Ladri. Terminerò con la mia trasmissione sabato prossimo. È una decisione sofferta che ho preso non senza scontrarmi amichevolmente, sia ben inteso, con la direzione della radio, che avrebbe voluto che io continuassi con questa trasmissione. Lo faccio perché dopo 2 anni è giusto anche rinnovare, e lo faccio soprattutto perché voglio dedicarmi anima e corpo ad Un Abuso al Giorno, che come sapete è la mia trasmissione che va in onda la mattina ormai da oltre un anno su Radio 24. Quindi continuate a seguirmi attraverso Un Abuso al Giorno, i temi che qui trattavo verranno sicuramente scavati e approfonditi anche in Un Abuso al Giorno. A risentirci dunque sabato prossimo, e intanto grazie in regia a Giorgio Matè e in studio a Laura Fagin.